Vabbè, ma questo cos'è? Niente. Una battaglia spaziale. Ma no, spaziale, è un beatbox. Ah, fatto con lo smartphone. Perché noi siamo, noi parliamo dell'infantilismo, ma in realtà siamo adulti, ci comportiamo come dei bambini. Io sì, drago, uso lo smartphone per giocare, per perdere tempo, per consumare traffico telefonico, per pagare di più alla mia compagnia telefonica e quindi entrare anch'io nel grande meccanismo degli adulti che si comportano da bambini e che producono poi alla fine di tutto questo sforzo intellettuale e attivo cose di questo genere. Voglio dire, ne vale o no la pena? Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Che colore è il Wunderwaffer? Ce lo siamo mai chiesti? Eh beh, un colore che io definirei, visto che sono un po' daltonico, quei colori sì. Lì sul beigino, sei anche daltonico, oltre sì. Sordo non saprei definirli, daltonico. Però io così direi un color khaki, sì, forse meglio dire beige, non so. Sì. Biscotto. Biscotto, sì. Però la questione dei colori è importante in realtà, perché sì. Wunderwaffer dovrebbero pensarci. Perché ormai gli scienziati hanno detto che i colori. Ormai, attenzione, perché ormai gli scienziati hanno detto ormai quando? Ormai si sa. Un'altra i bambini, delle tue ricerche esatto. Dell'università da felpa. I bambini nelle università da felpa sono stati studiati per come mangiano, per come scelgono i cibi, e si è visto che il colore è importantissimo. Cioè, se tu dai da mangiare ai bambini un piatto indistinto, di un colore indistinto, il bambino non lo mangia volentieri. Se gli presenti un piatto ben fatto con pomodori, peperoni, carote, sì. Colori giallo, rosso, questi colori ho capito, lì, i bambini sì. Mangiano più volentieri. Quindi alla fine tutta la lotta tra genitori e figli sul cibo, mangia non mangio, se non mangi t'ammazzo, eccetera, potrebbe essere risolta semplicemente scegliendo i cibi in base ai colori, quindi anche il Wunderwaffer. Cioè, così stop alle lotte intergenerazionali. Non si litiga più. Stop alle televendite, alle telefonate. No, stop al televoto. Stop a tutto. Grazie a una carota, due peperoni, un melone. Pensa un po'. E vinci le lotte intergenerazionali. Certo. A tavola, secondo me. Ma a tavola, ma ci sono solo le verdure che sono colorate, drago. Non è che puoi fare con la bistecca o il pollo arrosto. I formaggi sono bianchi. No, vabbè. Ci sono anche quelli tipo quelli olandesi arancioni, un po' schifosi. Ci sono anche quelli francesi con la crosta di cera rossa, no? Lì però poi sono bianchi dentro. Appunto. Vabbè, comunque frutta e verdura sono le cose più colorate. Sai che novità? Che puoi mangiare e sono anche quelle che i bambini mangiano meno volentieri. Quindi genitori approfittatene, colorate i vostri piatti. Tipo il minestrone. La minestra. Vabbè, quella. Quella è la nemica numero uno dei bambini a tavola. Seguita dai finocchi cotti. Però. Stanno lì. E quindi? E quindi, in effetti, il colore della minestra è. All'inizio i vari ingredienti sono molto colorati, però come sempre succede quando mischi tutta la roba, poi alla fine il colore risultante è un po' quel beigino, quel marroncino, no? Vabbè. Giallino, dipende sì. Se è un minestrone o se c'è la pastina, comunque insomma non è un colore vivace. È vero, della minestrina, anche i finocchi cotti alla fine, i finocchi sono grigi, diventano grigi, bianchini, sì. Quindi per evitare traumi ai bambini è bene non cucinare mai più la minestra. Dai, un po' di minestra non ho mai fatto male a nessuno, capa. Ma sai quanti casi di maltrattamenti domestici nascono da il trauma della minestra? E perfin la donna bella alla crisi si intonò, e per far la linea snella digiunando sospirò. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate, e vedrai che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha la metà fuori? Circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà. Alla faccia della crisi, da Cupertino arriva la notizia ufficiale che nascono più iPhone che bambini. Che grande notizia! Intanto il governo Monti ha tagliato i pediatri. Quindi nessun problema. Però è una notizia che fa riflettere. A chi li venderanno tutti sti iPhone? Nell'ultimo quarto dell'anno fiscale sono stati venduti ben 37 milioni di iPhone e il tasso di natalità non è rimasto al passo. Ogni giorno infatti sono stati acquistati 377.900 esemplari di iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, contro i soli 371.000 neonati venuti alla luce in tutto il globo. Una differenza di 6.900 unità. Vabbè, ma tanto telefonini. Tra vent'anni, i pediatri saranno rari come i tartufi, ci vorranno i cani per trovarli. In compenso ci saranno un sacco di cani e tartufi, un sacco di operai che assembleranno gli iPhone e all'asilo non manderanno più bambini. In compenso ci saranno un sacco di operai che assemblano gli iPhone e all'asilo non manderanno più i bambini, ma iPhone di nuova generazione, perché ce ne sono asilo più. Per iPhone, certo. Interessante, è il mondo del futuro, Drago. È inutile ricamarci sopra, piuttosto dammi un Wunderwaffer. Ottima idea, K! Pensare a queste brutte cose mi stava mettendo il cattivo umore. Guai, Drago! Bisogna sempre restare calmi e rilassati. Il cattivo umore è causa di patologie cardiovascolari e gastrointestinali molto importanti. Sì, K, ma è il mondo di oggi a essere spietato. Non è facile mantenere la serenità quando tutto intorno è un incubo da fine del mondo. È per questo che io mangio ogni giorno una quantità inverosimile, ma comunque sempre notevole, di Wunderwaffer. La merendina svizzera che ha soppiantato nel gusto corrente svizzero medio. Gusto corrente svizzero medio? Sì, ma ti fai il punto di domanda su questo e non su... Vabbè, quello è un nome che non si può dire. Ah, ecco, vedo che capisci. Ma perché... mi son perso, Drago. Gusto corrente medio svizzero. Ah, ecco, ero lì. Sì, certo, la medietà della medietà media. Quindi per la legge dei grandi numeri, la media svizzera è la media mondiale di tutto il globo mondiale. Ah, tu dici che mediamente, K, nel mondo si vive come in Svizzera, quindi... Sinonimo di medietà la Svizzera, capito? Quindi... Esatto, quindi Wunderwaffer se lo dovrebbero mangiare tutti anche in Somaliland. In... Somaliland, l'autoproclamato stato dei ribelli somali delle province del Puntland, del Makir e del Northland. No, Tito, no, vedi, Tito è previsto nelle radiovendite. No, anzi, guai, neanche nemmeno la digressione sul Somaliland. Però la storia della medietà elvetica funziona. Ecco, appunto, però se gli svizzeri fossero, come dici tu, gli indicatori della medietà, allora il Cenovis sarebbe popolare come la pizza. Invece lo conoscono solo in Svizzera. E cosa vuol dire? La prima casa italiana sul confine, a Como Monte Olimpino, Brogeda, come chiasso si chiama quel posto lì, ecco, già in quella casa nessuno sa cos'è il Cenovis. E stessa cosa in me succederà col Wunderwaffer se non troviamo la chiave giusta per promuoverlo. E allora cosa si fa? Io comincerei a mangiarmene uno. Ma lasciamene un po'. No, ormai l'ho mangiato tutto. Ma Drago, come i tossici che la mettono tutta. Niente. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Chiedo asilo. Quindi ma fai questo cronometraggio del passaggio della settimana, che la gente proprio, cioè, li fai sentire il passaggio del tempo. Vabbè, li fai soffrire così, il tempo passa, lasciali in pace, poverini, perché mi i nostri ascoltatori. Cioè, ma non mi devi trattare male? Chi è che ti tratta male? Dai, ma scusa, io stavo suonando, non è che... Vabbè, ricomincia, dai, tanto siamo qui per questo. Ma dai, no, basta, vai. No, basta. Se non vi piace, basta.